la situazione per noi al momento risulta assolutamente insostenibile, perché ci troviamo di fronte ad un sovraffollamento dell'istituto che ormai ha toccato punte e vette molto pericolose, nell'ordine di 730-740 detenuti presenti, perché nel frattempo i casi di contagio sia tra la popolazione detenuti sia tra quella degli operatori sta aumentando, quindi stiamo vivendo una fase incrementale e non è una cosa buona per una struttura chiusa come è una casa circondariale. Per cui di fronte a questi elementi, aggiungendo anche il fatto che il monitoraggio, lo screening che noi chiediamo da settimane di fatto è fermo a mesi fa e che viceversa deve essere una misura continuativa, soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo di recrudescenza dell'epidemia, ecco, tutte queste ragioni ci hanno spinto a proclamare lo stato di agitazione, sottolineo unitario, cartello sindacale, ma in questo caso non ha visto defezioni. Avete anche dati sull'attuale andamento dei contagi, cioè quante persone sono positive al coronavirus? Noi abbiamo una tabella da cui si evince che i contagiati sono oltre 25 al momento. Tenga conto che alcuni colleghi sono finiti in ospedale, perché naturalmente aumentando il numero dei contagi aumentano anche le percentuali di rischio che la patologia possa assumere, diciamo, dei connotati pericolosi. E poi soprattutto tengo a sottolineare il fatto che si sta procedendo in ordine sparso, e mi spiego. Abbiamo completato il primo giro di vaccino con AstraZeneca presso gli operatori, però i detenuti di fatto sono al palo e questa cosa non ci rassicura per niente. Le vaccinazioni non sono andate avanti all'unisono, sono andate avanti attraverso gli operatori e i detenuti sono rimasti indietro, per cui noi chiediamo con forza che una campagna vaccinale altrettanto serrata avvenga anche per la popolazione dei detenuti. Ovviamente con il sovraffollamento mantenere il distanziamento sociale è impossibile. Esattamente, è impossibile. Naturalmente noi stiamo chiedendo che tutti gli spazi possano essere utilizzati. Sappiamo di spazi che non vengono utilizzati in modo ottimale e quindi noi chiediamo alla direzione che ciò avvenga. Ma detto questo, a fronte del fatto che c'è questa sproporzione tra i numeri effettivi e quelli previsti per la casa circondariale di Bologna, però ripeto, è una situazione ad ampio raggio che riguarda anche altri istituti della regione e del nostro paese, perché si è creato ormai un sovraffollamento cronico delle strutture carcerarie italiane, per cui in una situazione del genere chi purtroppo si misura con questo virus si fa fatica a trattarlo e qui, soprattutto quando si tratta di un detenuto, a isolarlo dal contesto, e questo chiaramente rappresenta una minaccia per la tenuta, diciamo, della situazione, perché naturalmente se non si riesce a isolare il singolo detenuto chiaramente ci può essere un rischio di contagio, soprattutto con la variante inglese che è estremamente contagiosa, quindi lascio immaginare a lei e agli ascoltatori a che cosa andiamo incontro in termini di rischio. Questi sono i problemi che avete segnalato, ce ne sono anche altri, però quello che volevo chiedere è: la direzione penitenziaria vi ha già dato delle risposte? Allora, noi stiamo chiedendo con forza innanzitutto un tavolo, una regia, va bene, una cabina di regia a livello, a questo punto, di provveditorato, perché il problema non è solo di Bologna o solo di Rimini o solo di Parma, il problema ha una valenza e un'estensione regionale e quindi se ne deve far carico attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali unitarie il provveditore. La singola direzione cerca di fare quello che può, però per esempio per quanto riguarda gli ingressi, le nuove entrate dei detenuti, questa politica qui, questi criteri sono decisi a livello regionale, quindi noi abbiamo chiesto che ci sia un blocco soprattutto per quegli istituti che vivono una condizione come quella di Bologna, ripeto, ma che non è solo quella di Bologna, di sospensione dei nuovi ingressi. Questa cosa è stata adottata ed è responsabilità del provveditore, però per pochi giorni. Non può essere una misura di questo tipo per pochi giorni. Bisogna che la sospensione avvenga per un periodo congruo, fino a quando, diciamo, la situazione non rientri, la situazione emergenziale che sta vivendo quell'istituto non rientri.